Il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Vi aspettavo sempre puntuale qui, come tutti i sabati alle 14, fino alle 15 stiamo insieme, quindi cercate di pensare, diciamo, abbastanza velocemente all'inizio, qual è la vostra notizia della settimana, qual è il fatto sul quale volete ritornare. Sapete che ogni volta qua facciamo un bilancio e ritorniamo con libertà, insomma, ogni settimana che si chiude porta con sé strascichi di tantissime notizie, poi finisce che con la settimana seguente poi ci si dimentica di tutto tranne di quelle cose che sono sempre un po', soprattutto quelle tragiche, no, così in prima pagina. Quindi su cosa vorreste ritornare, esprimere la vostra libera opinione? Il numero verde è 800 24 00 24, ma come ci confermiamo questa settimana, rito immancabile all'inizio della puntata, che non ci sono davvero più le mezze stagioni. Guardate che questa cosa che vi sto per dire è proprio poi casualmente meteorologica, proprio lo conferma anche da questo punto di vista. Il vento, questa è la ricerca, proprio il titolo era "Il vento non è più quello di una volta", meno 15% in 30 anni. Devo dire che non sono l'unica, ma mi sembrava anche in Lombardia, per esempio, di aver notato che ci fosse più vento di una volta, perché prima si diceva le Alpi, no? Quindi la Lombardia, le regioni immediatamente soggiacenti sono riparate dal vento, il vento c'è più sotto, dall'Emilia Romagna, Toscana in giù. Invece sembra che ve ne sia meno, il 15% negli ultimi 30 anni. Questo è uno studio dell'Università di Versailles, l'università francese, e sembra, pensate poi l'assurdità, paradossalmente sembra che la colpa sia degli alberi sempre più numerosi e fitti, tanto da bloccare le brezze. Veramente ci si capisce più niente, ma come, si parla di sboscamento, poi sono gli alberi invece che sono tanti, troppi e fermano le brezze. Non ci sono più le mezze stagioni, che cosa dobbiamo concludere? E poi volevo anche raccontarvi, fra le varie notizie della settimana, e questa ovviamente è una ricerca di questa settimana, questa di cui vi parlavo, ogni tanto ricordiamoci anche, o sottolineiamo delle notizie che hanno una loro grandezza intrinseca. Per esempio, e mi fa piacere poi che in questo caso la protagonista sia una donna, giovanissima in realtà, una studentessa di 20 anni, pensate, che è stata nominata in Messico capo della polizia della città messicana di Guadalupe, al centro delle violenze dei narcos che stanno da anni ormai riducendo il Messico a una, come si può dire, a una specie di mattatoio, veramente, ogni poco. Poi se ne parla magari non diffusamente, sono agenzie che arrivano un po' tutti i giorni e magari non c'è spazio sui giornali, nei radiogiornali, televisioni, eccetera. Però pensate che il Messico, soprattutto in certe zone, sta veramente diventando un mattatoio, perché ogni poco narcotrafficanti fanno stragi, ma in modo veramente efferato, tagliano teste, decapitano, strappano cuori, delle cose orrende. E in particolare una città violentissima è Ciudad Juárez, che è ai confini con gli Stati Uniti, e lì soprattutto sono state vittime negli ultimi anni centinaia di ragazze. Ci sono poi anche tanti morti tra i poliziotti, tra i commissari. Questa ragazza ha deciso in questa città l'unica che ha accettato di fare il capo della polizia e ha persino, pensate, rifiutato la scorta. Speriamo che duri il più possibile, a volte la follia dei coraggiosi, no? Le auguriamo davvero di fare il suo lavoro, non possiamo dire la massima tranquillità possibile, perché sarà impossibile. Nell'ultimo anno 2000 omicidi ci sono stati, insomma, comunque viva il coraggio di certe donne. Bene, ora ricordandovi il numero, se avete intanto nel frattempo pensato a quali sono le notizie della settimana che vi sono rimaste un po' impigliate ai pensieri, 800 24 00 24. Magari ve ne ricordo qualcuna, per esempio per stare un po' all'estero, visto che molti se lo sono dimenticati inevitabilmente, un po' tutti ci siamo dimenticati. Haiti, no, dopo il terribile terremoto, c'è una strage di colera adesso che sta facendo moltissime vittime. Poi per quanto riguarda l'Italia, un po' in piccolo, non così tragico, però la questione dell'emergenza rifiuti spazzatura a Napoli e Campania, il lodo Alfano, le discussioni sulla TV, i programmi, Saviano, Fazio, che sembra adesso che i contratti ci siano, ci sono stati giusto dei ritocchi a ribasso per certi compensi, lo sciopero in Francia, è stata approvata la riforma delle pensioni proprio ieri, e ci sono state delle agitazioni incredibili e altre ne sono annunciate. Insomma, sempre la questione cronaca nera Sara Scazzi, anche se grossissime novità non ci sono tranne la conferma della carcerazione per Sabrina Misseri. Insomma, pensateci voi tranquillamente alla vostra notizia 800 24 00 24. Intanto vi presento il mio opinionista estemporaneo di oggi. Giordano Bruno Guerri. Buongiorno. Buongiorno Giordano. Eccoci. Giordano, pensate, tra l'altro, devo ringraziarlo, perché penso di ritardargli almeno di un'ora il suo viaggio. Sei fermo in macchina o alla fine hai trovato qualche altra sistemazione, Giordano? Sono fermo in macchina in un autogrill vicino a Piacenza. Ma ti sei mangiato il panino, quello classico, i vari nomi, adesso non stiamo a ripeterli lì all'autogrill, si è a posto? Naturalmente, naturalmente. Ho fatto un lunghissimo panino e adesso sono qui bello in forma, tranquillo, godendo il paesaggio nebbioso. Il paesaggio autostradale, diciamo. E, tra l'altro, insomma, lo sapete, vado sempre, quando non sono tranquilli a casa loro gli ospiti, io li vado a fermare, a braccare. Vi ricordate qualche puntata fa Sergio Rizzo, che era sul traghetto con le onde alte, c'era quasi pericolo, ogni tanto andava e veniva, si parlava di una ciambella di fortuna che potesse salvarlo. Io ho pensato, c'è la TV del dolore, del dramma, perché io non posso fare la radio del dramma? Immaginavo Rizzo che nuotasse, annaspasse, poi per fortuna, diciamo, insomma, tenendo il telefonino ben in alto. Certo. Perché non si bagnasse. E no, se no interrompeva il collegamento. Comunque alla fine è arrivato a riva, mi sembra sano e salvo, sì, poi ci siamo sentiti, era piuttosto a posto. Giordano Bruno Guerri, scrittore che tutti conoscete, giornalista, storico, autore e conduttore di trasmissioni TV, insegna storia contemporanea all'Università Guglielmo Marconi di Roma, è opinionista del giornale. L'ultimo libro fra i tanti saggi che ha scritto Giordano Bruno Guerri è Il sangue del Sud, antistoria del risorgimento e del brigantaggio, pubblicato da Mondadori. Diciamo, Giordano Bruno, intanto ti devo chiamare Giordano Bruno ogni volta, basta Giordano? Basta Giordano. Anche basta, se mi sembra Giordano. Un po' di chiamarmi solo da sola. Solo mia madre mi può chiamare Bruno. Sì, ah, solo Bruno. Sì. Io magari ti chiamerò o Giordano Bruno. Facciamo così, così non voglio sollecitare la suscettibilità di nessuno. Il sangue del Sud, dicevamo, Giordano Bruno, è un po' sulla linea di vari studi, ricerche, libri, ultimamente in vista anche, no, del 150 anni dell'Unità d'Italia, del rivedere un po' sotto un'ottica diversa, soprattutto la questione del Sud, la questione meridionale, no? È questo che fa in questo libro Giordano. Sì, è una storia del risorgimento vista dalla parte dei conquistati, perché bisogna francamente ammettere ormai dopo 150 anni che si trattò di una conquista, che solo le élite erano consce e contente dell'unione e le popolazioni amorfe, soprattutto al sud, non ne sentivano minimamente la necessità, però furono contente. In molti seguirono Garibaldi, 1000 diventarono 50.000, perché Garibaldi aveva promesso delle meraviglie, cioè abbassamento del prezzo del pane e soprattutto terre ai contadini che fino allora lavoravano più o meno come schiavi. Cosa vuoi dire? Che aveva fatto le promesse dei politici di oggi? Farò questo, farò quell'altro, vedrete, tutto meraviglioso. No, non credo. Garibaldi non era un politico, per sua fortuna e per nostra disgrazia, era solo un eroe infiammato che credeva in quello che faceva. Poi decisero i politici. Infatti Garibaldi, nel suo ultimo intervento in Parlamento, dove dette scandalo, tra l'altro tutti lo prendevano in giro perché si presentò in poncio dando scandalo, lui disse: non era questa l'Italia che sognavo, ma particolarmente non era quella l'Italia che sognavano i meridionali, che si trovarono colonizzati più che altro. Cioè è vero che gran parte dei beni del sud venne depredato, soprattutto l'oro che era nelle banche e che costituiva più del doppio dei beni di tutti gli altri stati italiani, e quasi niente venne reinvestito al sud. Giordano, allora vogliamo dire che forse meriterebbero una compensazione, un risarcimento? Qual è al fine la la conclusione? Beh, alla fine la mia conclusione, prima di tutto bisogna premettere che io ritengo che l'unità sia stato un bene per tutti. Anch'io. E che vada mantenuta e protetta ad ogni costo, con o senza federalismo, ma comunque anche il Meridione alla fine, molto alla fine, dopo più di un secolo ha cominciato a trarne vantaggio, ma che gli inizi furono veramente drammatici, appunto con una guerra civile seguita da una crisi economica spaventosa e da quel fenomeno tremendo che fu l'emigrazione, che portò milioni di meridionali a dover sfuggire alla miseria e alla fame. Senti, Giordano Bruno Guerri, adesso io tra poco ci sono i molti ascoltatori al numero verde 800 24 00 24, c'è Ilia da Roma, c'è Alfonso da Firenze, c'è Ferdinando da Pavia e via via. Ma ti chiedo di riflettere, visto che stiamo parlando del Sud, visto che è un po', io ritengo, la notizia principale di questa settimana, poi ognuno ovviamente valuterà le proprie, senza nessun vincolo, dicevo, la spazzatura che sta inondando di nuovo Napoli, mi piacerebbe sapere poi cosa ne pensi, se ci hai capito qualcosa, le responsabilità, le possibili soluzioni. Adesso Berlusconi dice in 10 giorni risolveremo, però c'è un, fra gli altri, un sindaco, le vedevo oggi sulla stampa, di Bosco Reale, vicino Napoli, esponente del PDL, che non ci crede, dice, virgolettato, se Berlusconi ce la fa in 10 giorni è un miracolo e vuol dire che lo proporremo come santo, quindi forse in questo momento non si fidano molto. Ma comunque, tu intanto pensaci, Giordano, poi ci sono gli ascoltatori, ma come sempre un collegamento, anche per avere un punto di vista diverso, extraterrestre. Riflessioni da Marte. Questo da Marte, questa settimana, guardando giù, si è vista appunto tutta una gran monnezza. E tanto era la confusione che non si riusciva più nemmeno a distinguere tra ecoballe, balle tout court, eccetera, eccetera. Comunque, parlerei di TV, ecco, per cambiare argomento. E che a nessuno venga in mente la battuta, avendo esordito appunto sulla monnezza, è già la TV spazzatura, sarebbe troppo facile. No, insomma, no, vorrei parlare di TV seria, quella, come si può dire, quasi pedagogica, no? Che ci fa capire con esempi lampanti che cosa significa privare i bambini di cose fondamentali come la libertà di giocare coi giochi che desiderano e quindi le future conseguenze di una simile deprivazione. Perché? Per esempio, mi chiedo perché hanno impedito a Bruno Vespa da piccolino di giocare con la casa delle bambole. Il Lego, per esempio, almeno il Lego, quello con i mattoncini rossi, no? Che ha permesso a milioni di bambine e di bambini di essere imprenditori edili anche senza avere grossi capitali. Quello non lo si è proprio negato a nessuno, che so. Almeno un fortino con gli indiani che erano sempre cattivi, un fungo come casa per i puffi. Il piccolo Bruno, immaginatelo, con un po' di empatia, vedeva gli altri giocare con queste casette multipiano, senza mutuo, di diversi centimetri quadrati calpestabili. E lui niente, non poteva giocare. Avete visto questa deprivazione a cosa ha portato? Bruno Vespa, una volta accantonata, dopo averci giocato ossessivamente, la baita di Cogni, che, diciamolo, come un vecchio gioco da mandare in soffitta, insomma, ha fatto il suo tempo, è ora passato al plastico della villetta di Avetrana. E l'ultima volta ci faceva passare davanti anche le macchinine, avete visto, avanti e indietro questa villetta di Avetrana. Ricordatevelo per favore la prossima volta che a vostro figlio negherete la possibilità di giocare con un'automobilina, che davvero non si nega proprio a nessuno, o con una modesta casetta senza pretese, anche senza soffitto, senza cucina. Ma a proposito di TV, diciamolo, la censura non è quella verso Santoro, contro la Gabanelli, contro Fazio e Saviano, e smettiamola di essere fuorviati. La vera censura è quella che, offuscata da tutto questo gran polverone, è quella che è passata del tutto in sordina, del tutto inosservata, quella che ha impedito all'ombelico primogenito della TV italiana di tornare con un suo programma a breve scadenza. Ecco, la censura dunque che ha impedito di riavere sugli schermi la raffa nazionale, perché questo sì priva gli italiani del senso della continuità e di qualsiasi certezza. In anteprima vi posso rivelare il vero motivo di questa censura. Pare che Raffaella Carrà volesse cantare una canzone estremamente trasgressiva, con chiari riferimenti erotici e persino patriottico-unitari, nonostante le polemiche sui 150 anni dell'Unità d'Italia. Sentite in anteprima mondiale. Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Tanti auguri andarci sulla terra queste stravaganze, insomma, marziane. Volevo subito sentire, mentre Giordano Bruno Guerri poi ci dirà cosa pensa della situazione di Terzigno e della Campania in genere. Leggevo adesso che le tonnellate di immondizia nel centro di Napoli sono arrivate a 2400, tra poco non ci si vedrà neanche più. Però vorrei sentire, dicevo, almeno un ascoltatore o un'ascoltatrice al numero verde 800 24 00 24, per cominciare a sentire un po' quali sono le vostre di riflessioni. Ilia, dicevamo, quindi da Roma. Sì, buongiorno signora, sono io. No, non mi chiamare signora, Ilia, fa venire l'urticaria. Chiamami Roberta. No. Non mi è facile, no, sono deformata, è una deformazione commerciale, pertanto per me... No, non facciamo i commercialisti. Dimmi una cosa, Ilia, se io fossi un uomo, come mi chiameresti qua in radio? Signore. Mi chiameresti signore? Signore. Mm. Sì, mi viene istintivo così, perché non riesco mai a dare il nome alle persone con le quali io ho un rapporto, al momento, l'immediato. Poi ovviamente se questo... Si prende una confidenza maggiore, mi riesce, ma l'impatto immediato non mi riesce. Però se te lo chiedo per favore. Sì, va bene. Le dicevo comunque che quello che mi sconcerta di più, è vero che non ci sono più le quattro stagioni, ma non ci sono più davvero. Perché le quattro stagioni o la capricciosa? Proprio le stagioni. Ah, sì. Perché quanto io sto sentendo in questi giorni nei canali di informazione in generale, io vedo poco la TV, sono sincera, però quello che mi sconcerta è che quando l'accendo l'argomento è uno solo, perché se vorrei un canale di informazione dico va bene, oggi mi vedo Santoro, parla di Berlusconi, se poi vedo l'altra trasmissione di informazione, parla di Berlusconi, se poi vedo la signora Gabanelli parla di Berlusconi, cioè veramente ne abbiamo piene le tasche. Ma al di là di questo, di Berlusconi o delle trasmissioni, Ilia? Prego? Di Berlusconi o delle trasmissioni ne abbiamo piene le tasche? Ne ho piene le tasche dell'argomento unico, che non sanno, non si sanno organizzare, argomentare questi nostri giornalisti che paghiamo a fior di milioni di euro all'anno, perché mi sembra veramente anche qui, ecco, le stagioni non ci sono più, perché quando mi sono resa conto che cosa dicesse sere fa il signore che ha scritto Gomorra, del quale non ricordo il nome, Saviano, di quanto vuole per ogni puntata televisiva, io credo che c'è veramente da vergognarsi e dovremmo tutti noi italiani dire spengiamo questa RAI, la chiudiamo, sentiamo Radio 24 che informazione, cultura, e capacità intellettiva, più ne ha più ne metta, perché mi creda, io sento 24 ore al giorno, il 24 ore forse qualcosa in più degli altri posso sapere al momento in cui mi trovo ad argomentarmi in altre con degli amici, e questo grazie a voi. Ma oltretutto quello che ancora mi inghigna di più è il fatto che noi dobbiamo pagare alla RAI per avere queste informazioni con degli stipendi da capogiro. Io ho letto sul giornale, sul 24 ore sempre, degli stipendi dei presentatori RAI. Io veramente credo che tutti gli italiani dovrebbero ribellarsi a queste vergogne. Io sono una donna che ha 40 anni di lavoro, di servizio, 10 anni fa sono andata in pensione con 1.600.000 lire, ero una regina, oggi mi trovo con 830 euro, a 64 anni devo lavorare se voglio vivere. Queste sono le vergogne dell'Italia. Ecco le stagioni, è il caso di dire che non ci sono proprio più, ma non c'è più neanche il sole che ti fa sorridere, signora. Signora Roberta, oggi poi a Milano il sole manco neanche c'è la minima intenzione. Ilia, ti ringrazio, anche a Roma quindi mi fai sapere che non c'è più sole, o è una questione solo metaforica? In questo momento dietro una nuvola non c'è sole. Ma arriverà, via, ci sono giorni, domani è un altro giorno, Ilia, speriamo. Dovrebbe magari piove. Dovrebbe farci sorridere almeno, sì lo so, però è veramente raccapricciante, perché quando si è troppo siamo veramente andati, abbiamo sconfinato ogni limite, non c'è più limite in nessuna cosa. Ilia. E non abbiamo più la giusta e buona informazione che ci necessita. Noi vogliamo un'informazione vera, noi paghiamo per averla, ma non ce n'è. Questa è la nostra, purtroppo è il nostro rammarico. Ilia, Roberta, con questo saluto grazie. Lei e tutti gli radioascoltatori. Grazie Ilia, grazie, buona buon continuazione. Lavoro. Grazie. E mi fa venire in mente uno spunto questo di Ilia, al di là dei compensi astronomici di conduttori, poi si può essere d'accordo o meno, però un altro dato di questa settimana, se non sbaglio, leggevo su un qualche giornale, ma in realtà è cosa che si dice da diverso tempo, che è vero che gli stipendi di conduttori, ma anche di super manager, di dirigenti di grandi aziende, anche di medie aziende, insomma, ha causato nel tempo una forbice, una divaricazione enorme tra quello che è il lavoro, diciamo, dei normali dipendenti che siano impiegati o anche in altre aziende, che siano giornalisti semplici o che siano operai, eccetera, eccetera, tra chi sta sopra i dirigenti e chi, diciamo, fa un lavoro più o meno ordinario. Se fino a un po' di anni fa, credo che si parlasse di circa 20 anni fa, 30-20 anni fa, c'era un divario di 20 volte, cioè chi comandava, diceva, prendeva 20 volte più di chi stava sotto. Adesso si prende 4 in molte situazioni, in molte realtà, 400 volte più di quello che prende un lavoratore ordinario all'interno della stessa azienda. Ecco, su queste cose non solo bisognerebbe parlare, ma forse bisognerebbe mettere mano, possibilmente. Giordano Bruno Guerri, allora, ti dicevo, quindi la monnezza a Napoli, visto che il tuo libro parla di questo sud annesso quasi per forza e anche depauperato senza poi una compensazione, eccetera, vuoi parlare prima di questo, se ritieni di avere un'opinione ben precisa sull'emergenza rifiuti in Campania, oppure volevi commentare quello che ha detto Ilia? Beh, intanto direi Ilia for President, perché mi sembra una personalità estremamente carismatica e sicura di quello che vuole, molto simpatica, sì, e decisa. Ma mi piacerebbe commentare prima questa faccenda dei super stipendi dei manager. Sì, anche se, perdonami Giordano, perdonami, perché vede un'agenzia proprio di adesso, agenzia ANSA, visto che hai parlato di Ilia carismatica, è una dichiarazione di Fini che sta dichiarando molto negli ultimi giorni, dice: il partito carismatico è il miglior strumento per vincere le elezioni, ma il peggiore per governare. Poi non so se sia il caso di Ilia, ma comunque dicevi, prego, scusami Giordano. Il partito carismatico, vabbè, lo sorvoliamo. Perché Fini stesso si basa sul proprio carisma, quindi anche questo è vero, sì. Non mi sembra una grande trovata. No, stavo pensando alle super liquidazioni, sì, in particolare a quella di Profumo, che ha avuto 40 milioni di euro di buona uscita. Sì. Io ero cliente di quella banca, ho investito tutti i miei denari in iniziative suggerite dagli esperti della banca e nel 2008 ho perso un terzo dei miei risparmi. E quindi a me risulta molto difficile capire la logica per cui il signor Profumo è stato premiato. Non è solo una questione di differenza di stipendio fra manager e può essere che sei stato particolarmente sfortunato tu, visto che tutti dicevano invece che Profumo, insomma, aveva portato una banca media a diventare una realtà. Profumo ha portato profumati soldi alla sua banca, il che non assicura che li abbia portati anche ai risparmiatori, anzi probabilmente li ha sottratti ai risparmiatori per portarli alla banca. Bah, vabbè, questo sarà poi opinione personale di Giordano Bruno Guerri. Invece la mia esperienza personale più che altro. Senti, ma adesso però come te la passi? Sono povero. Tanto più che mi hanno offerto, pensa, di partecipare a 15 puntate di una trasmissione televisiva. Ilia parlava di super compensi a 350 euro lordi a puntata. Che netti poi diventano? calcolo dopo. Netti, poi considerate 200. Le tasse di fine anno, diventano più o meno la metà. Senti, invece sulla questione del... Ma non voglio fare il piagnone, sono un uomo felice che vive nel benessere ed è allegro di quello che ha, che è molto più della media. Intanto il panino all'autogrill te lo sei potuto comprare, già appunto, questo è Giordano. Bello lungo, come dicevo. Senti, invece sull'immondizia, che opinione ti sei fatto? Senti, questa cosa che Berlusconi riuscirà a rimediare tutto in 10 giorni è pure possibile, magari ce la fa anche in 5, perché a lui piacciono neanche Dio però, sì, sì. Però abbiamo visto che 7. Il problema poi non è stato 6. risolto, praticamente c'è stata messa una toppa, magari la responsabilità degli amministratori locali, ma certamente io ho letto una notizia che mi ha impressionato, che sono stati investiti non so quanti milioni di euro adesso per rifare le tubature fognarie, le condatture dell'acqua in quel disgraziato paese, perché altrimenti non si riesce a garantire la bontà delle coltivazioni, la purezza dell'acqua, eccetera, eccetera. Ma non si doveva fare prima tutto questo? Eh beh, diciamo che ci sono dei ritardi di decenni probabilmente, anche se poi proprio per questo poi si sfilacciano un po', come possiamo dire, i percorsi per arrivare poi alle responsabilità, no? Col tempo che passa, alla fine uno andare a ripercorrere tutto il filo, di la filiera proprio si potrebbe dire, no? Da dove siano partite le cose. Ecco, mi sembra che, e non parlo solo del governo Berlusconi, parlo di una tradizione italiana che addirittura nasce con Mussolini, quando Hitler arrivò in visita ufficiale in Italia in treno, tutte le case che stavano sulla ferrovia dal Brennero a Roma vennero dipinte, solo le facciate però, dietro rimasero in rovina, brutte, scalcagnate. Un'abitudine ecco, un po' che è rimasta. Mi sembra che la tradizione sia rimasta in questo senso. E almeno un po' di continuità ce l'abbiamo. Alfonso da Firenze, all'800 24 0024. Alfonso, prego. Senti, Roberto, sì. Io sono sicuro. Sì. Sono sicuro almeno al 90% che la rivolta di Persigno è autentica e sospinta da sentimenti e risentimenti profondi. Credo anch'io. Anche perché io sono non di quelle parti, ma vicino a quelle parti. Perché Maroni stesso, il ministro dell'interno, in questi giorni ha detto escludo che ci sia dietro la camorra questa protesta. Lo stesso Berlusconi ieri ha detto capisco coi miasmi, cattivi odori, cioè, la gente ha ragione, ma dobbiamo trovare il modo. Ma Mantovani non l'ha escluso, però. Ma insomma, però mi sembra e che... E poi penso che sì. L'equità nell'uso del territorio è schiacciata e sarà sempre più schiacciata da interessi profondi, da forze dotate di grande capacità di monopolizzare per il loro tornaconto il territorio. E quindi si pone questo problema di come risolvere il problema nel futuro di comporre questi conflitti, ma non attraverso le manganellate. Negli Stati Uniti e in altri paesi sono delle metodologie di consultazione e di analisi che portano alla composizione dei conflitti di carattere sociale che riguardano l'ambiente, il territorio e altre cose. Quindi dici non con l'uso della forza, ma cercare condivisione, trovare compromessi, sentire anche... Sì, attraverso una metodologia, non attraverso una papocchia, attraverso la democrazia. Ecco, questo di cui abbiamo bisogno, la democrazia dell'ambiente, la democrazia nell'uso dell'ambiente, questo è il problema che si diventerà sempre più grande nel futuro. Grazie. È un problema di democrazia. Grazie Alfonso. Tra l'altro mi fai venire in mente che proprio ieri il vescovo di Nola, lì vicino Napoli, a proposito della genuinità diciamo di queste proteste, diceva Beniamino De Palma, ha lanciato questo appello alle istituzioni, dice affinché prestino ascolto alle validissime ragioni della gente vesuviana, visto che queste discariche sono state aperte, dovrebbe essere aperta un'altra nel Parco Nazionale del Vesuvio. Dice l'apertura di un'altra discarica sarebbe come provocare la morte definitiva di un territorio dove va rilanciato con forza lo sviluppo, il lavoro, il turismo, eccetera, eccetera. Ad aiutarci in questo commento dei fatti della settimana, mio opinionista estemporaneo oggi è Giordano Bruno Guerri, giornalista, scrittore, storico, ultimo libro pubblicato con Mondadori, Il sangue del Sud, antistoria del risorgimento e del brigantaggio. Ritorniamo però alle vostre riflessioni. Adesso c'è da Pavia Ferdinando. Pronto? Pronto Ferdinando? Buongiorno. Buongiorno a te. Sento un po' Roberta, volevo approfittare del tuo microfono per mandare un messaggio alla mamma di Sabrina e alla moglie di Michele. Le donne del sud, in casa loro, sanno tutto di tutto. Non si muove un ago che loro non sanno. Di conseguenza di non approfittare della non punibilità sua e dire quello che sa realmente. Poi pregare anche il professor Guerra, che siccome Guerri, scrive sul giornale, di farle un appello in questo senso, perché proprio non si può più vedere in televisione, sul giornale, questa ragazza Sara ammazzata per tante altre volte. ti ringrazio tantissimo. Grazie a te Ferdinando. Ferdinando, diciamo, in sintesi lancia questo appello più che a Concetta, la povera mamma di Sara, a Cosima, che è la mamma di Sabrina Misseri, moglie di Michele Misseri, gli indagati in questo momento per l'omicidio. Però è chiaro, io, se fosse così, perché ancora i fatti vanno ovviamente accertati, se ci sarà un processo, le sentenze eccetera eccetera, però anche fosse che fosse veramente colpevole Sabrina, nonostante di un delitto orrendo, io posso capire una madre che cerca di coprire la figlia, quindi uno può lanciare per carità l'appello per individuare il colpevole. Pensate che tra l'altro il favoreggiamento in questi casi, quando riguarda dei legami familiari così stretti come la famiglia propria d'origine, il favoreggiamento non viene neanche punito come reato, proprio perché la legge stessa comprende alla fine, insomma, chiude un occhio, diciamo, ma proprio per legge su questo tipo di favoreggiamento. Giordano Bruno Guerri, ti volevo chiedere, a proposito appunto di questo delitto, ci sono secondo te più colpi di scena nel delitto Scazzi o nel comportamento di Fini? Ci sono più colpi di scena nel comportamento di Fini, certamente, perché sono colpi di scena che proseguono ormai da 15 anni, se non di più, e sono molto più clamorosi. Il delitto Scazzi, pensa che mia moglie ed io, devo dire più per merito di lei, di mia moglie, che è una donna del sud appunto. Di dove? Di Bari. Abbiamo, quindi pugliese, sì, soprattutto. Certo. Lei ha detto subito, ma è chiaro che è stata la figlia, cioè la Sabrina, come si chiama? E beh, qua un po' tutti gli italiani, sai, di fronte a un caso del genere, tipicamente nostro, sì, ma credo degli esseri umani in genere, no? Purtroppo. E delle famiglie, perché sì, hai detto giù bene, la legge non riconosce il reato di fare favoreggiamento in caso di famiglia, perché la famiglia è di per sé un'istituzione ovviamente benigna. Io non sono mai stato così bene da quando da poco ne ho una. Quindi è fresco sposo sei tu, Giordano. Infatti non sapevo, mi chiedo Giordano. Non sono neanche sposo, per la verità. Compagni. Ho trascurato questi dettagli burocratici. Siete compagni, però anche se non nel senso di vendere. Sono fresco padre. Sì. Ah, fresco padre sei. E io un bambino di 3 anni e 10 mesi. Senti, Nicola Giordano, come vedi Giordano impera in questa trasmissione. Ebbene sì, però Giordano, ricordati di farlo giocare con la casetta, con le casette, i plastici da piccolo, perché poi dopo sono da grande te li presenta. Lo faccio giocare con tutto, ecco. Anche con le bambole. Anche con le bambole, per certo. Per evitare che gli vengono poi dei traumi, certo, sessuali. Soprattutto mi presto persino a farmi picchiare, sai che... con i figli maschi si fa la lotta, ci si sfoga, insomma. Lui a un certo punto non ha più apprezzato la lotta, dove rischiava a volte di perdere. Ma la diplomazia quasi internazionale è stato un mediatore. E lui mi impone di mettere le mani dietro la schiena in modo da potermi colpire tranquillamente. Ma insomma questi giochi mi così... sto facendo degli addominali fantastici. Hai visto? A volte l'allenamento anche coi figli. Però, Giordano, io ti volevo dire questa cosa a proposito di Fini, poi passiamo senz'altro al prossimo ascoltatore, all'ascoltatrice Tina da Magenta. Mi ha colpito a proposito dei cambiamenti di Fini in questi anni, anche negli ultimi giorni, insomma, ha dato un primo sì a Lodo Alfano, poi adesso invece i finiani pongono, insomma, alcune domande, delle incertezze. Sul Corriere di martedì ha scritto una lunga lettera in risposta a un articolo di Ernesto Galli della Loggia, martedì questo, ha scritto questa lettera in cui dice: ho diritto a cambiare idea. E ti leggo proprio uno stralcio, leggo a te e agli ascoltatori, in cui, insomma, uno può condividere o non condividere. Dice: rivendico il diritto di cambiare opinione assumendomi tutte le responsabilità. Accade di cambiare opinione quando ci si pone con umiltà e senza pregiudizi di fronte alle cose della vita, alla storia, ai mutamenti che investono la società nella quale si vive. E in questo mio percorso politico, ma anche esistenziale, ho guidato il mio partito verso il cambiamento. Credo in buona fede di aver raggiunto dei risultati. Non sono stato solo l'ultimo segretario del Movimento Sociale, sono stato anche il primo di Alleanza Nazionale, l'artefice di Fiuggi e della faticosa strada che ne è seguita. Quando mi sono recato in Israele è stato anche attraverso la piena e profonda comprensione della tragedia della Shoah e delle responsabilità del fascismo, che ho cominciato a osservare con nuovi occhi il passato, il presente e il futuro. Ti convince? In teoria sì, certamente Fini ha fatto tutto questo ed è stato anche un percorso benigno. Quello che mi colpisce però è la lentezza di queste trasformazioni, cioè prima di chiudere il movimento sociale sono passati decenni, dopodiché un altro lungo passaggio. Io penso che quando dirigevo l'Indipendente, cioè nel 2005, suggerivo a Fini di fare esattamente quello che sta cominciando a fare oggi, almeno apparentemente. Ne ha fatto tesoro e l'ha capito solo dopo, forse, Giordano Bruno Guerra. Ci ha messo molto tempo, tant'è vero che viene il sospetto non tanto che sia lento, ma che colga il momento più opportuno. Sentiamo Tina da Magenta, al numero verde 800 24 0024. Tina? Pronto? Eccoci qua. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. Complimenti, condivido tutto quello che sta dicendo il professor Guerri. Ah, innanzitutto. Sarà contento. Che mi piace moltissimo, lo seguo. Grazie. Abbasso la radio, pardon. Sì, grazie, infatti sentivo. Sì. Questo... No, mi riferivo al discorso di Napoli. Sì. Ecco, non sento nessuno dire in questo marasma, in questa cosa che succede ripetutamente, ecco, che non è soltanto il discorso rifiuti, lì è proprio una zona, una popolazione che non accetta le regole. E è successo così con la storia dei caschi, quando è arrivata la legge sul casco per le moto, è successo con le cinture di sicurezza, e quindi possibile che nessuno riesca ad inquadrarle. Io credo, è il sindaco che se ne lava le mani e che si invoca, si affida alla Madonna. C'è un sindaco Iervolino, io consiglierei a quel signore di andarsene a casa, di lasciare il posto magari a un giovane, a qualcuno che si prende in mano la situazione, perché ieri la sentivo dire in un'intervista che a Napoli arriva il 19%, mentre a Palermo arriva il 4%. Ma sì, di raccolta avanti, differenziata. Ma deve guardare avanti questa signora, non indietro. Ecco, questo è il punto. E comunque sono proprio le regole che queste persone non vogliono accettare. Tina, quindi, secondo me, forse sul casco hai ragione, poi io ci sono andata spesso lì anche da ragazzina, quindi poi mi adattavo, devo dire la verità, anch'io, poi quando si andava sul motorino senza casco, in tre, poi invece su, quando ero in Lombardia, ero molto rigida e timorosa delle regole anch'io. Però poi quelle sono cose, diciamo, un po' su se stessi, che poi sì, hanno delle conseguenze magari su se stessi, uno le accetta un po' inconsciamente, un po', diciamo, con incoscienza. Però questa cosa della spazzatura, in realtà io credo che non abbia tanto a che fare con la gente, ma con uno stato di abbandono, di scarsa responsabilità degli amministratori e anche dei vari governi che si sono succeduti. Adesso poi si dice che in realtà da un po' di tempo la competenza della raccolta differenziata e della spazzatura sia passata alle province, alle regioni, quindi il Russo Iervolino dice in realtà io faccio quello che posso, ma sarebbe, insomma, è una questione complessa. L'importante è mettercisi di buzzo buono, ma prima di tutto anche a livello di governo centrale. Prima della prossima pausa, c'è la viabilità, arrivano un sacco di telefonate a Giorgio De Luca, quindi vorrei dare spazio anche a Roberto da Roma. Buongiorno Roberto. Buongiorno Roberto. Senta, io volevo confutare alcune affermazioni di quella signora che una mezz'ora fa diceva che era Ilia, sì, da Roma, indignata delle grandi paghe dei calciatori, dei presentatori Rai, eccetera, e soprattutto ha fatto un appunto sulla Rai dicendo che noi si paga il canone. La signora mi sembra poco informata del fatto che noi paghiamo il canone perché la RAI non ha la libertà di rassimolare pubblicità liberamente, può avere solo il 26% della pubblicità, l'altro 75% va alle reti Mediaset, tranne una piccola fetta che va alla 7. Cioè, c'era prima questa disinformazione, purtroppo. Le grandi paghe, le liquidazioni da 40 milioni di Profumo, eccetera, sono cose che indignano tutti noi. Però bisogna anche dire che queste paghe vengono da questa globalizzazione dei mercati, vengono date questi soldi perché questi portano pubblicità e ripagano le loro cose. Se non si facesse così, certi presentatori potrebbero passare da una parte all'altra. Quindi tu dici lo fanno un po' per aggiudicarsi. Poi riguardo alla vostra radio, che dice che lei le convinzioni sue se le è fatte alla vostra radio, io non credo, la vostra radio è molto più pluralista di quello che era quella signora. Io sono un fedele ascoltatore, l'unica cosa che vorrei appuntarvi dillo piano. Per il suo collega Cruciani, che negli ultimi 3 mesi è diventato un po' troppo goliardico e un po' troppo di destra, non è più obiettivo come l'è stato per i 2 anni precedenti. Roberto, ma ti conviene dirlo direttamente a lui, noi non ci passiamo magari i commenti, le considerazioni, i suggerimenti. Se vuoi fai un suggerimento la sera, glielo puoi fare tranquillamente. Intanto ti ringrazio molto, Roberto da Roma. Volevo chiedere a Giordano Bruno Guerri, mio opinionista estemporaneo di oggi, posso farti brevemente, perché proprio il tempo stringe, il test che fanno all'università di Oxford per poter avere uno dei pochissimi posti prestigiosi per studiare gli studenti? Posso farti brevemente il test, poche domande? Sì, anche se sento che verrò bocciato. Senti, allora, una delle domande, perché ha rivelato l'Università di Oxford in questi giorni quali sono alcune delle domande che hanno fatto per gli ultimi studenti. Per esempio, mi descriva questo cactus. Ora, io volevo descrivere, già darti una minima idea in modo che tu radiofonicamente potessi descriverlo, perché di solito ma questo non lo vedo cactus nessuno. È un bel cactus verde, irto di spine, grasso di acqua e vuole stare bene al sole ed è molto simpatico. Promosso su questo. Ancora 2 domande hanno fatto a uno studente: che cos'è normale per un essere umano? Stare bene, la ricerca della felicità, diciamo. Ultima domanda tra le tante che hanno rivelato è questa: se qualcuno rischia la propria vita e quella di altri in uno sport estremo, è un eroe o un fesso? Io tendo più a dire che è un fesso, però la vita è sua e quindi anche se mette a rischio quella degli altri. Senti, a questo proposito mi viene come un suggerimento, come il prossimo appuntamento con Stefano Andreoli, il papà, diciamo, di Spinoza.it, ha scritto anche un libro su questo blog satirico più cliccato della rete. Ogni riferimento è puramente casuale, naturalmente, Stefano. Stefano Andreoli, eccoci qua. Che riceve premi a destra, manca pure in Belgio. È andato ultimamente, temevo di non poterlo avere per questa puntata, invece lui ha fatto di tutto per essere presente. Stefano, abbiamo presentato il libro a Bruxelles, una cosa veramente fantastica, e colgo l'occasione per salutare tutti. Ho scoperto che sarei stato ammesso a Oxford, ho buttato via la mia vita. Hai visto, soprattutto rispondendo se era un coraggioso o un fesso. Sì, da fessi fare sport estremi come accendere mutui, per esempio, in Italia in questo periodo. In certi periodi, sì. Diciamo allora, così. Ecco, quindi facendo una fotografia di questa settimana, che cosa... La settimana, dunque, intanto la signora Ilia, lei non può dire di essere informata e poi dire l'uomo che ha scritto Gomorra, non mi ricordo il nome, abbiate pazienza, sappiamo tutti che è stato Federico Moccia. E quindi, scusate, forse un piccolo lapsus, comunque la settimana... Scusa dicevamo, se ti chiamo amore, sì. Lodo Alfano. Il Lodo Alfano che riapprovato proteggerà il capo dello Stato e il Presidente del Consiglio. Io non lo so, riesce sempre a farla franca questo napoletano. Io mi chiedo veramente, è diabolico, un uomo diabolico, mi chiedo cosa ci nasconda. Lodo Alfano retroattivo. Ora Berlusconi può uccidere un suo antenato senza subire le conseguenze. Ecco, questo è un po' il sunto della nuova legge. Berlusconi di suo afferma di non avere mai chiesto il Lodo Alfano. Era in una sua vecchia lista di nozze e se la deve essere. Ecco, quindi ci ha spiegato, insomma, Andreoli un po' qual è la questione dell'Lodo Alfano. Sì. In pratica, chiudiamo questo discorso e andiamo a Report. Milena Gabanelli apre Report domenica scorsa con un'inchiesta su Berlusconi. Evidentemente quest'anno non le andava di lavorare e ha deciso ha trovato questo modo per risparmiarsi delle fatiche. Abbiamo sentito tutti della famosa villa di Antigua, c'è un mistero, non c'è un mistero. Ghedini alla fine della trasmissione ha detto sbagliato mandare in onda quella trasmissione senza contraddittorio. In effetti ci voleva almeno un senza tetto, secondo me, perché così avrebbe equilibrato il punto di vista di Report. Altro fatto tristemente sulla bocca di tutti, Terzigno. Manifestazioni, l'Unione Europea annuncia anche lei non sbloccherà finanziamenti, non agevolerà in nessun modo finché non si risolve la costruzione di discariche nei parchi. e pare che non abbia funzionato neanche la tattica di farle a forma di grandi cestini, che poteva essere un sistema per fare entrare la discarica nel parco, ma non è stato così. Comunque gli abitanti di Tersigno, è stato assicurato, gli abitanti di Tersigno vivranno in un posto pulito, cioè l'ospedale, visto come sono stati trattati dalla polizia negli ultimi tempi. Chiuderei con un'ultima cosa un po' più curiosa che viene dall'estero, gesto simbolico in Messico contro i signori del narcotraffico. Sì. Non so se hai visto le fotografie, un falò immenso, le autorità hanno bruciato 134 tonnellate di marijuana, un numero che fa una quantità spaventosa, un falò enorme, pare che i posti sottovento siano andati a ruba. Bene, censuriamo come sempre Stefano Andreoli, grazie caro Stefano. Ciao, alle prossime sciocchezzuole. E invece, mentre chiedo a Giordano Bruno Guerri di pensare tra poco a una sua conclusione, do la parola alla nostra Valeria Della Valle, la mia linguista preferita della Sapienza di Roma, alla quale sottopongo la parola di questa settimana, che mi sembra proprio in modo conclamato Monnezza, se ti va, Valeria. Sì, mi va. Beh, Monnezza non è altro che la variante romanesca di Mondezza, e Mondezza a sua volta deriva da immondezza, ma per indicare la spazzatura, la sporcizia, la parola italiana sarebbe immondizia. E che cosa c'è da dire? Beh, è divertente il fatto che la parola monnezza, che è una parola, questa variante romanesca, che è una parola fortemente espressiva, in fondo si è diffusa in tutta Italia, no? Si leggono anche titoli di telegiornali nei quali, a proposito di Napoli, però si usa la parola romanesca, monnezza. E a rendere così familiare e conosciuta da tutti gli italiani questa parola, chi ha contribuito? Ma contribuito soprattutto Ermonnezza, no? Il personaggio interpretato da Thomas Milian in un film diventato poi di culto degli anni 80, 70. Ma insomma la usava già Trilussa nelle sue poesie. Ma detto questo, conclusione, Monnezza ha un'altra qualità, il fatto di poter essere usata anche con un significato figurato, insomma una frase che si sente ripetere abbastanza spesso, che è tutta una monnezza, rende molto bene il nostro pensiero. E che cosa fa capire? Che non ci si riferisce solo e unicamente alla spazzatura. Molto bene Valeria Della Valle, sei stata veramente emblematica, efficace, inequivocabile, grazie Valeria Della Valle. Grazie a te. E adesso chiedo, in questi 23 secondi che ci rimangono, Giordano Bruno Guerri, mentre ricordo il tuo libro ultimo, Il sangue del Sud, antistoria del risorgimento e del brigantaggio, come vuoi concludere questo nostro incontro radiofonico? Con una frase di non mia ma di Aldo Busi, sì, che condivido in pieno. È ora che gli italiani scendano in piazza a protestare contro se stessi. Ah. Perché, aggiungo io, è tempo di smetterla di dare sempre la colpa a qualcun altro. Ci facciamo un pensierino. Grazie Giordano Bruno Guerri, puoi riprendere il tuo viaggio, parti, lascia l'area dell'autogrill finalmente dopo il tuo panino. Grazie di aver fatto questa sosta. Intanto Roberto Giordano vi dà appuntamento come sempre sabato prossimo alle 14. Intanto sereni orizzonti a tutti.